Good morning, Radio Kabul! Nerucimi Respublik Svobodny Splatila na veki Velika Jaros Milan, Bolševiko Stanni volen naroda Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin. Sovietski Sajus Slavsia Comunista bolscevico Milan Setung Setung Setung Radio Kabul Družbin naroda Mladioš Diablo Stalin Lenin Milan Vai con l'armata rossa Piegati al sistema che non siete altro Nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata e una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo in onda fino alle 10.30 per queste tre mezz'ore. Siamo con voi. C'è l'Alpino in regia. Agitati bene, Alpino, che non ti vedo qui dalla ridotta di Viale Monza. A fianco a te c'è un altro milanista doc, Danilo Di Trani, che ci aiuta oggi insieme a tutta la nostra redazione. Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, sparpagliati, uniti a combattere. Beh, adesso non esageriamo, no, perché ho sentito l'altro ieri il commissario Arcuri parlare di guerra, seconda guerra mondiale, i bombardamenti di Milano. Ho detto, e che è? E allora mi sono fatto un po' prendere la mano qui anch'io nell'esordio di questa settimana. Stiamo sereni, stiamo tranquilli, stiamo uniti. Ecco, questa parola uniti, soprattutto ho visto alcune dichiarazioni di alcuni governatori, dovrebbe essere il mantra uniti, e invece no. Va bene, 800 24 00 24, questo è il numero per telefonarci se volete mandare messaggi, commenti, sms, whatsapp, audio. 349 238 6666. Non dimenticate le mail 100.000@radio24.it. vai, Alpino, che ci siamo, vai. Enthusiasm about the future. Allora, ecco, uniti è la parola che dovrebbe essere diffusa di più in Italia, e invece l'unità italiana ha retto un pochettino. Adesso un po' di nervosismo si insinua soprattutto all'interno dei governatori. Perché? Perché è inevitabile pensare, vedere i numeri, vedere che in Lombardia ci sono tanti casi, in Val d'Aosta, giustamente, effettivamente anche prima sentivate Nino Cartabellotta, in Val d'Aosta non se ne parla, ma in Val d'Aosta in rapporto alla popolazione ci sono tanti casi, in Piemonte, in Veneto, si sa, in Emilia-Romagna, man mano che si va verso sud i casi diminuiscono, e questo è un bene, siamo contenti per i nostri fratelli e amici centro-meridionali. Questo però ha dato il via a una serie di polemiche. Allora, come al solito, è lui, il presidente della regione Campania, che per la verità, rispondendo a un timido tentativo di riapertura, oddio, più che timido, un tentativo di riapertura delle regioni del nord, ha risposto dicendo: e allora qua chiudiamo tutto. Senti un po', De Luca, vai. Se dovessimo avere una corsa in avanti da parte di regioni nelle quali abbiamo ancora il contagio presente in maniera così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un'ordinanza con la quale vieteremo l'ingresso in Campania di cittadini provenienti da regioni nelle quali il contagio è pienamente in corso. Eccolo qua, al quale De Luca ha risposto. Luca Zaia, presidente della regione Veneto. Zaia. Cioè, loro propongono di chiudere i confini regionali, la Campania, i titoli nord contro sud, è sud contro nord questa roba qua, altro che nord contro sud. Vabbè, dai, nord contro sud, sud contro nord, no, dai, da nessuna parte. Non facciamo una guerra, non riapriamo, come dire, conflitti del passato quando l'Italia non era unita. Lasciamo stare. Però alcune domande ci sono. Per esempio, io vorrei capire, in Molise, sapete che spesso si dice il Molise non esiste, invece esiste come? Però leggevo che ci sono praticamente zero nuovi contagi, questo l'altro giorno. Mi chiedo perché. È vero che siamo un paese unito, ma perché non si può pensare a delle riaperture diverse in base alle situazioni locali? Per esempio, se in Molise la situazione è più tranquilla, ma perché non possono riaprire le scuole? Così, domanda, perché non possono riaprire, ovviamente rispettando tutte le normative, tutta la distanza, le sapete, tutte le questioni. Perché non si può pensare, laddove la situazione lo consente, di far riaprire alcune attività produttive? Io, ad esempio, lo so, ho un bar, sono in Molise, ho un bar in una zona con zero contagi, ma perché non mi viene permesso di fatturare un pochettino, perché altrimenti tra due mesi magari non ho più soldi per da mangiare ai miei figli? Domanda. Sulla questione dei figli poi non apriamo oggi il dibattito, forse lo faremo domani, perché il modo in cui effettivamente sono trascurati i figli in questa situazione di emergenza è incredibile. Comunque, che ci sia qualcosa che non va, oggi vi segnalo due inchieste, quella del Corriere della Sera a quattro firme: Monica Guerzoni, Marco Imarisio, Simona Ravizza, Fiorenza Sarzanini, a pagina 6. E allora, ragazzi, noi sappiamo che il primo caso certificato è il 21 febbraio, ormai il celebre Mattia di Codogno, quando l'ANSA ha battuto la notizia del primo caso di coronavirus, 21 febbraio. Guardate qui, andiamo un po' indietro, 7 gennaio, dunque un mese abbondante prima. Il 7 gennaio Pietro Poidomani, che è un medico di base, riapre il suo ambulatorio in via Trieste a Cividale Alpiano. Siamo a 25 km da Bergamo. Arrivano i primi 5 pazienti, tutti con lo stesso problema: anziani, che lui ha già vaccinato per l'influenza di stagione, hanno ancora febbre e una strana tosse, faticano a respirare. E a ognuno lui prescrive una radiografia di torace, il responso è uguale: complicazioni da polmonite con marcati addensamenti interstiziali. Quel giorno, su 50 visite, 12 così. Il giorno dopo ancora, e poi ancora, e poi ancora. E poi il dottor Poidomani sente altri dottori e dicono: anche da noi è così, al che scrivono all'azienda di tutela della salute della provincia di Bergamo: non sarebbe il caso di vedere tutte le radiografie dal 25 dicembre in poi? Non otterranno mai risposta. Ecco, poi si dice: il paziente 1 Mattia di Codogno, ma dovrà essere ricostruita questa grande verità postuma secondo la quale poi non è stato lui il paziente 1. Evidentemente per un mese e più la situazione è stata lasciata, non so per colpa di chi, non so per imperizia di chi, è stata lasciata così allo sbando, senza nessun controllo, e poi forse da qui si capisce perché in Lombardia siamo in questa situazione e in altre regioni e in altre nazioni no. Vi volevo chiedere anche questo: chiamateci all'800 24 00 24, vi sentite di scaricare la app Immuni? La scaricherete, perché guardate che questa app che è stata scelta verrà presentata, credo, domani, servirà solo, se ho capito bene, e sarà efficace se verrà installata da un certo numero di italiani. Ma vedo già che sulle chat ci sono comitati, gente che si barrica dicendo: no, non la scaricheremo mai questa app Immuni. La scaricherete? Vi chiedo solo una cosa, per favore, siate coerenti, non ditemi io tengo alla mia privacy e non voglio dare i dati a un'app per la quale poi non so che fine fanno i miei dati. Va bene, basta che non siate persone che fino a ieri avete firmato magari a dare la privacy al supermercatino di zona, alla palestra sotto casa, al cinema quando comprate un biglietto o a una piattaforma social qualunque. Allora, se date la privacy a cani e porci fino all'altro ieri, non è che poi potete dire adesso non volete dare la privacy a un'app, perché la coerenza prima di tutto. Però ditemi che cosa fate di questa app immuni. Ecco, arriverà questa app, vediamo un po'. Allora, signori, però non esiste solo il virus. Io voglio prendermi un attimo, come direbbe Leonardone Manera, oggi sarà con noi dalle 9.30 come al solito la sua vistaglione, in un giorno particolare. Vogliamo prenderci, non dico un'ora d'aria, ma almeno un quarto d'ora d'aria. Vogliamo parlare di altro e non di coronavirus. Voglio parlare di un libro. Le librerie sono aperte. Le librerie quindi sono rifornite. Ci sono anche librerie che danno libri. Li portano a casa, a domicilio. Ci sono le piattaforme online. Quindi, insomma, la possibilità di comprare dei bei libri ci sono. Allora, io voglio salutare il mio primo ospite per parlare di questo libro. Si chiama Adolfo Ceretti. Buongiorno, professor Ceretti, ed eccoci da lei. Buongiorno. Allora, professor Ceretti insegna criminologia all'Università di Milano Bicocca. Tra l'altro, la criminologia mi ha sempre affascinato, il criminologo. Adesso magari ce lo definisce bene il criminologo. Certo, sappiamo tutti quelli che hanno a che fare con il crimine o i crimini. Allora, ha scritto questo libro, il cui titolo è curioso, ma non sveliamolo subito, ce lo svelerà dopo, perché Il diavolo mi accarezza i capelli, memoria di un criminologo. È edito dal Saggiatore. Poi sveleremo da dove nasce, perché è da un incontro particolare questo libro. Criminologo, come lo definirebbe in due parole, professor Ceretti, il criminologo? Innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori. E questo libro l'ho scritto con Nicolò Nisivoccia, ci tengo a ricordarlo, che certo. È un avvocato e tra l'altro un collaboratore stabile del giornale del Sole. Guardi, la prima distinzione che bisogna fare, così nel senso comune, è distinguere il criminologo dal criminalista, perché molto spesso le persone pensano che i criminologi siano i nipotini di Sherlock Holmes, c'è gente che va in giro con la lente di ingrandimento a cercare le impronte digitali, o nella versione più attuale, che si occupa del DNA, delle tracce, l'ematologo forense, il mitico Dexter della serie televisiva che tutti forse conoscete. Ecco, il criminologo ha una tradizione e un impianto di studi completamente diverso, perché in Italia, infelicemente, la criminologia nasce con Cesare Lombroso, che è tutti hanno nel loro immaginario collettivo. Comunque, diciamo, un medico psichiatra che inizia a fare un'analisi, in quel caso sulle matrici fisiche, sulle matrici del corpo, i segni del corpo che sono portatori della criminalità. Naturalmente poi la criminologia si sviluppa in mille altre dimensioni, ma fondamentalmente si va a cercare l'origine del comportamento deviante da un punto di vista sociale individuale. Sì. Cioè, si cerca di spiegare e di capire come mai una persona arrivi a compiere violenza verso un'altra persona, no? a compiere un crimine, per l'appunto, il che vuol dire lasciare stare tutte le questioni che aspettano alle forze dell'ordine, ma indagare all'interno di una persona, porsi di fronte a questa persona, indagare. Allora, in questo libro troverete molto della vita di Adolfo Ceretti e molto degli incontri di Adolfo Ceretti con diversi criminali. C'è un incontro sugli altri che l'ha segnata, Ceretti? Ma guardi, direi che gli incontri che mi hanno segnato di più, e non uso la parola criminali, ma parlo dei responsabili della lotta armata in Italia, perché Ho dedicato 7 anni della mia vita insieme a Guido Bertagna e Claudia Mazzuccato a aiutare i responsabili della lotta armata in Italia, alcuni responsabili della lotta armata degli anni 70-80, che dopo 20 anni di carcere o anche 30 si sono ripresentati nel tessuto sociale dopo aver pagato il loro debito con la giustizia, ma ancora con delle domande aperte nei confronti della società e soprattutto nei confronti delle vittime, che sono rimaste per decenni prima, come degli ospiti tollerati durante i processi, e poi con delle domande esistenziali fortissime nei confronti di chi aveva commesso questi atti che allo stesso tempo erano degli attacchi al corpo a delle persone e degli atti sovversivi. C'era una sorta di doppio crimine, se lei dice, contro le persone ma anche contro le istituzioni. Sì, in quel momento si è parlato addirittura, alcuni storici definiscono l'epoca degli anni di piombo come un'epoca di una guerra civile a bassa intensità. E naturalmente, appunto, per come io intendo il ruolo del criminologo, qui c'era da mettere un po' le mani in pasta con vari aspetti che riguardavano la storia sociale e politica, ma soprattutto l'incontro tra le persone. Chi aveva attaccato il corpo di altre persone in nome di un'ideologia. E dall'altra parte chi aveva subito un male indicibile o era sopravvissuto oppure i loro cari. Certo. Senta, professor Ciaretti, le chiedo questo. C'è una parte molto interessante del libro che va sotto il capitolo giustizia riparativa. È un termine che forse è poco conosciuto, che ci deve spiegare, perché Ciaretti, dovete capire, cari ascoltatori, è uno dei si può dire massimi esperti, insomma, di giustizia riparativa, che è un concetto nato a metà degli anni 90, se ho capito bene. E che vorrei ci spiegasse in poche parole cosa significa giustizia riparativa. Sì, in realtà con questa domanda continuo un po' il percorso della risposta precedente, nel senso che per motivi che adesso non posso neanche pallidamente riassumere, proprio negli anni 90 si è presentato agli occhi di chi si occupa dei temi di giustizia un nuovo modello di giustizia che, a differenza della giustizia ordinaria, che è legata, diciamo, a un modello verticale calato dall'alto verso il basso, dove c'è un giudice che in nome del popolo prende decisioni, la giustizia riparativa lavora su un piano orizzontale ed è affidata anziché a un giudice a un mediatore dei conflitti. Noi intendiamo i reati, oltre che come delle offese a dei beni protetti dall'ordinamento giuridico, anche come delle rotture di relazioni sociali. Per esempio, appunto, un femicidio o una violenza sessuale rappresenta ovviamente una rottura di una relazione sociale. E quali sono i resti che rimangono sul campo dopo la commissione di un reato? Sono gli effetti distruttivi di un conflitto che nasce tra chi l'ha commesso questo reato e le persone che l'hanno subito o i parenti delle vittime. Allora, quindi, se fermi qui, voi immaginate questo, cari ascoltatori, c'è appunto un omicidio efferato, lei ha detto, non so, un femminicidio, purtroppo ce n'è stato uno anche ieri, pensate cosa vuol dire la giustizia riparativa, e cioè, secondo la libera scelta delle parti, assolutamente libera, le parti, cioè la parte, colui che ha compiuto il crimine e colui che l'ha subito, ovviamente i parenti se si tratta di un delitto, si siedono uno di fronte all'altro e cercano di vedere questo reato non più come un'offesa, come è di fatto, come è considerato, ma cercano di trovare un modo per fare che cosa, Ceretti? Mi aiuti lei con le parole? Ricomporre una rottura? La parola ricomposizione credo che sia la più corretta e le faccio i miei complimenti, perché molti parlano di riconciliazione o usano altri termini che tecnicamente forse sono più corretti, ma ricomporre significa provare a creare una giustizia che nasce sul volto delle persone, cioè attraverso la parola e attraverso un interrogarsi vicendevolmente, aiutati da un mediatore dei conflitti, quindi da un esperto di giustizia riparativa, a ricucire la ferita che il delitto ha provocato. Questo lei capisce, non avviene, però... certo, lei capisce quanto è impopolare questa posizione, no? Siamo in un'epoca in cui si gettino le chiavi, si utilizzano dei termini molto molto forti, forca, pena di morte, no, nei confronti dei criminali. Invece questa è una sfida, attuale, la giustizia riparativa. Sì, guardi, in tutte le legislazioni europee, per rimanere nel nostro continente, sono entrate in vigore normative abbastanza precise che regolamentano, naturalmente relazionandola alla giustizia ordinaria, perché non è una giustizia fai da te che io invito le persone a casa mia, è un giudice ovviamente che invia i casi ed è al giudice che i casi ritornano. In Italia siamo un passo indietro, però ci sono dei bravissimi parlamentari che si stanno muovendo in questo momento anche per avere in Italia una regolamentazione più concreta, e io mi rendo conto di essere totalmente controcorrente, ma me lo sono scelto diciamo consapevolmente. Il libro è efficace anche per questo. Ovviamente ci sono anche tantissimi incontri, se volete leggere gli incontri del professor Ceretti con, non so, cito alcuni, Renato Vallanzasca, Erika e Omar, il caso Juker, ricordate Ruggero Juker che uccise brutalmente la propria fidanzata. Ecco, lei ha guardato, come si dice con un'espressione molto retorica, il male negli occhi, no, di tante persone. Però non ha, perché lei dice non ho mai giudicato nessuno? O meglio, la base è questa, non giudicare mai nessuno. Davvero si può? È un esercizio che si può imparare a fare. Nel senso che inconsciamente noi continuiamo a giudicare, ce l'ha insegnato anche Freud. Ma appunto il... lavoro che ho fatto su me stesso, e qui non posso riassumere quali sono state le modalità, va proprio in questa direzione. C'è tutta una parte del mio lavoro che è il lavoro, forse per me la parte più importante, cioè su capire perché una persona diventa delinquente, cioè diventa violenta, e com'è possibile che nel corso della vita una persona decida di attaccare violentemente il corpo di un'altra. In questa parola decida c'è già parte della mia visione sulla violenza, nel senso che io, al di là di quelli che sono poi appunto gli studi delle neuroscienze importantissimi, eccetera, eccetera, ho la convinzione che c'è sempre un dialogo interiore che chi attacca il corpo di un'altra fa, e c'è un momento in cui si dice ecco, ora io sto per fare questo atto. Questo atto. E io lavoro proprio per ricostruire narrativamente come avvengono questi percorsi, e che cosa si trova alla base di questi percorsi di vita che poi portano appunto ad atti violenti. atti violenti. Allora, leggete questo libro. Allora, in conclusione dobbiamo svelare il motivo del titolo. A un certo punto, lo riassumo molto velocemente, c'è un incontro che il professor Ceretti deve fare nel carcere, perché ci sono due carcerati, uno è marocchino, l'altro è un cittadino italiano, napoletano, si sono giurati a morte, morte reciproca, quindi la situazione sta per degenerare, e lì parte una mediazione molto complicata, cioè vengono messi di fronte queste due persone, e a un certo punto, quando il professor Ceretti chiede al cittadino italiano, al carcerato, ma come mai lei, cioè cosa la spinge a compiere, ad avere queste pulsioni di violenza, c'è questa frase che il carcerato le disse, cioè: guardi professore, ogni sera quando mi addormento il diavolo mi accarezza i capelli. Sì. Che poi è diventato di fatto il titolo. Cosa il significa titolo. Quella frase per lei? Sì, il diavolo viene e mi accarezza i capelli, nel senso che per me ha avuto una matrice simbolica estremamente significativa, che appunto sono quelle frasi che poi ti permettono, se hai appunto delle competenze in campo criminologico, di cominciare un dialogo molto più in profondità. Beh, qui la domanda era proprio: che cos'è il male per lei? E questa persona ha presentificato addirittura nella figura del diavolo e di questo incontro con il diavolo ogni sera la sua dannazione interiore. E questi sono degli spunti straordinari che un criminologo può cogliere per cominciare un discorso molto più in profondità. Significa che c'è stata una breccia, che c'è stata un'apertura nel dialogo che una persona ha con se stessa, e che può essere finalmente disponibile a entrare in una dimensione che è molto più autoconsapevole, cioè, autoriflessiva, sì. Iniziare un'autoriflessione. E quella frase mi ha fatto capire appunto che questa persona il male lo sentiva come una cosa che lo toccava ed entrava nel suo fisicamente. Allora, io, professor Ceretti, la ringrazio, ripeto, se volete leggere il libro edito dal Saggiatore, Il diavolo mi accarezza i capelli, memorie di un criminologo di Adolfo Ceretti. Io volevo iniziare questa puntata in modo un po' diverso, non parlando di coronavirus, ma parlando di altro, perché esiste anche un altro mondo. La ringrazio, andiamo un attimo in pubblicità e poi Vestagliona Manera. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, sono Paolo da Ravenna. Caro Milan, sì, io l'app la installo, non c'è problema, ma se non ci sono i tamponi per verificare effettivamente i positivi, gli asintomatici, che cavolo ce ne facciamo di quest'app? Think I love you. But I wanna know for sure. Mani giù apriranno, ma il governo gliene frega del nord, perché è il nord che lavorano e si pagano le tasse per pagare gli stipendi. Quindi al governo gli interessa che riprendiamo noi. Ragazzi, siete fantastici! Grande Alessandro, grande Leonardo! La parte di trasmissione che adoro di più in questo periodo è dalle 10:30 alle 11. Continuate così, bravi! Va bene, va bene. Leonardona? Leonardone Manera? Ai. Pronto? Ai. Ai. Ah. Ai, cosa c'è? Ai, cosa c'è? Ai, oggi ai, no, fermi tutti, ai, fermi tutti, fermi tutti. Quello, cosa c'è? Fermi tutti. Cosa c'è? Cosa c'è? Oggi compio gli anni e sono da solo, mi sto tirando le orecchie da solo. Ai, ecco, attenzione, fermati, ai. Leonardo, fermati. È un giorno importante, noi lo sapevamo, vogliamo festeggiarlo, sì. Così. E 3, 2, 1, vai! Ed è la dal sud che te lo chiede e dai manera facci un gol. Fabio Treves, Fabio Treves, il Puma di Andrate, l'abbiamo convocato ciao, per un ciao, breve. Ciao, per auguri, un breve Leo, auguri Leo, grazie ciao, Fabio. Sai che molto gentile io, sei stato. Io tutti gli anni ti telefono, però questa volta qua non ho resistito ed è partito l'inno. Certo, l'inno della sud, l'inno della sud. Sì. Vabbè. Cioè, vabbè. Fabio, non so se ti rendi conto, ma l'hai sentito sì. Che si tira le orecchie da solo a casa? Pazzesco, perché... pazzesco. Che già aveva delle orecchie ben sviluppate, quindi vedremo, vedremo un maniera modello Dr. Spock, sì, più o meno. Non ho ancora le orecchie che si allungano molto con i lobi che arrivano al mento, come succede a una certa età. Sai come, sai come diciamo noi qui a Lambrate? E se proprio un bel fiulet. Questo che vuol dire? Insomma, però adesso proprio... dovrebbe partire ovviamente il classico quiz. Secondo voi quanti decenni, quanti lustri, quanti anni insomma compie il buon Leonardo Manera? Non so se vabbè, adesso andranno su Wikipedia. C'è una voce a su me, Wikipedia, Leonardo? A me sì, c'è, cioè, a me basta che diciate meno di Fabio Treves, sono già contento. Beh, così che poi sei sempre così umano, Leonardo, bravo, così ti voglio. Beh, ormai io sono in quell'età, il non diversamente giovane Treves, qualcuno scrive. Stupendo, ovviamente ci scrive Pietro da Parma, compio gli anni anche io, ricordiamo che compie anche gli anni anche mia figlia Angelica, ha 14 anni, adesso è di là a scuola, diciamo di là in camera a scuola, e compie anche gli anni, sai Fabio chi compie gli anni, chi è nato chi? Anche chi, oggi? Chi? Adolf Hitler. Ragazzi, cioè, vabbè, questo, allora... questo cioè, dovrebbe dire qualcosa, no? Sì, a Manera dovrebbe dire qualcosa, però... Esatto. Ma io a quel comunista di Treves dico che compie gli anni il 20 aprile anche Massimo D'Alema, che ormai non si è sente vero, più, chissà. Anche Massimo D'Alema. Mi viene sulla merendina di mezz'ora fa, ragazzi, cioè, se andiamo avanti così... Vabbè. Vedi, mica allora, come me che ne so che compio gli anni il 5 dicembre come Maria De Filippi, ecco, e come mia moglie, è come mia moglie la cosa più importante, è come Sonny Boy Williamson, è come Little Richard, è come Walt Disney, 5 dicembre, capite, tutti 5 capite, dicembre. Capite. Fabio, come si vive nel tante volte abbiamo detto insomma che Leonardo Manera ci ha fatto presente come il mondo dello spettacolo sia davvero fermo e sarà l'ultimo a ripartire. Porca miseria, non ci voleva questo virus. Mi manca l'amico Manera, mi mancano i miei amici cabarettisti, mi manca il blues, mi manca la mia band, però non si può fare niente se non pensare in maniera diversa e cercare di migliorare anche le proprie prestazioni musicali, studiare nuovi brani, iniziare nuove collaborazioni, tutto così, molto sul futuro ovviamente, sul futuro anteriore, cioè molto molto futuro, perché qua ovviamente lo spettacolo non è nelle prime priorità delle ripartenze di questo paese. Sì, però. Ma secondo te, per esempio, quest'estate, tenendo le sedie un po' distanziate, si può pensare di tornare a fare qualcosa o è una cosa inimmaginabile? Ma no, non è inimmaginabile, però bisogna vedere quale organizzatore di concerto, di rassegne riuscirà a organizzare una situazione di questo tipo, che sicuramente all'aperto si può fare, in uno spazio molto molto aperto, ovviamente non nei teatri e non in posti molto, molto ristretti e chiusi, però... come si dice, bisogna sempre essere avanti con le cose belle, con i pensieri belli. Io sono a casa e ripeto, mi guardo dei vecchi filmati in bianco e nero, mi guardo i gol di Shevchenko, stupendi gol di Shevchenko. Cioè voi immaginate Fabio Treves a casa che mette su i gol di Shevchenko, cioè sì, i migliori gol di Shevchenko. C'era una cassetta che era uscita tempo fa per, certo, per la casa. I 112 sì, e quella lì è come la segreteria telefonica, quando sono un po' giù me li metto e mi ringaluzzisco, poi guardo le puntate di una TV come Zelig, dove ho avuto anche la fortuna di essere ospite del mitico Leo, insomma cerco di come diceva l'amico, sì, di pensare positivo, andare avanti. Ovviamente ascolto la vostra radio e quindi basta, vi auguro, cioè non ci vediamo, buon Natale. Come va con tua moglie? Tua moglie ecco, ti sopporta ancora oppure non vede l'ora? Sì, che... mia moglie mi sopporta ancora, sono un bravo maritino, preparo le cene e cerco di tenere pulita la casa, da quando poi non arrivano tutti i miei amici buzzurri che si piazzano lì, è diventata una bellissima meglio, casa pulita. E poi allora basta, non e poi... rientra Fabio Treves, non rientra nella categoria che oggi la Bernardini De Pace dice in prima pagina su Libero, c'è un sacco di gente pronta a divorziare, cioè un sacco di gente, pare che la convivenza abbia portato alla distruzione praticamente di non so quanti matrimoni. Io sento anche molti miei amici, dei miei coetanei che proprio non ce la fanno più, dicono basta, e quindi si inventano quelle scuse lì, il cane, il bambino piccolo che c'ha 34 anni, poi andare a pigliare il cane che non esiste, il cane che non esiste, porto il cane fuori, ma dov'è e il cane? Poi devo, no, veramente guarda, sono ai minimi termini e io queste persone qua li mando là dove ormai non c'è più posto, in quel paese, come diceva il mitico, e basta, devo dire, però io sono in una posizione privilegiata, perché poi sai, per me Susanna è il punto di riferimento, è come sì, c'è da dire che dall'altra parte molti invece, sempre sì. Bernardini De Pace dice, tornano a casa, molti infedeli, cioè effettivamente sì, gli amanti sì. All'epoca del coronavirus, Leonardo, sì, un giorno dovrei farci un bel pezzo sugli amanti all'epoca del non ci si può vedere in teoria, anche se poi ho notizia di gente che va in giro comunque. Com'è in notizie? Cosa vuol dire notizie? No, una mia amica mi ha raccontato che la sua coinquilina aveva l'amante che andava prima da una e poi anche dall'altra, aveva due amanti e lui si spostava andando sì. In barba al virus proprio, in barba al virus sì, sì. E secondo me ce ne sono doppia barba. No. La coinquilina in doppia barba. Sentite, io sarei tutta la mattina con voi perché lo sapete da tanto tempo, vi voglio bene. Però devi andare a fare la spesa. Non ho capito. No, quale spesa? Io faccio la spesa online. Io sono esattamente dall'ultimo concerto della Treves Blues Band, quello lì famoso del 22 febbraio, che sono a casa tranquillo. A casa. E non esco mai. I miei amici mi dicono, ma sei esagerato, guarda, non ti riconosciamo più. Cosa vi devo dire? Io sto bene qui e poi soprattutto sono una persona molto molto rispettosa delle regole e in questo periodo che è molto triste cerco di farlo diventare un po' meno triste con la mia presenza in giro. Che sai, allora, nel dire che Manera secondo alcuni compie 53 anni, non so, hanno vinto la sfida, Leonardo? Non ricordo, adesso vado a controllare la Wikipedia. La cosa più incredibile, Alessandro, che Manera potrebbe essere mio figlio, ti rendi conto che scampato pericolo per lui? Non esageriamo. No, Fabio, vuoi salutarci con un giro di qualcosa? Salutare perché adesso sto pigliando il mio treno, il treno della fantasia, il treno della libertà e vi voglio bene. Ciao Leonardo, auguroni, ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Grande Fabio Treves, grazie, vieni a trovarci presto, ovviamente quando si potrà, dovremo fare, caro Leonardo, quando potremo rivederci tutti, abbiamo Raffaele Kohler con la tromba, Fabio Treves con l'armonica, cioè possiamo mettere in piedi praticamente Come fanno altre trasmissioni di Radio 24, potremmo fare una reunion nell'auditorium che c'è di sotto, certo, no? Quindi una salutazione per gli ascoltatori nostri che hanno voglia di venirci a salutare, facciamo una sta già cercando di accaparrarsi degli spazi pubblici, ovviamente a gratis, caro Leonardo Manera. No, se mettiamo un biglietto, richiesta. Così magari guadagno qualcosa, mettiamo un biglietto anche piccolo d'ingresso, così riusciamo anche a tirar su due soldini. Quando si potrà? Nel 2023. Ma guarda, io dico prima, ecco. prima. Ma anche perché, guarda, sì, ma tu le vedi le immagini? C'è questa immagine dei tedeschi che erano a passare il weekend, sì, lungo un fiume, ben distanziati. Ci sono a Hong Kong quelli che sono andati al mare con gli ombrelloni, ben distanziati. Ma io mi chiedo, ma davvero, ma senza polemica, mi chiedo, sono pazzi gli altri che ripartono lentamente? Leggevo che in Spagna Sanchez vuole liberare i bambini. I bambini vadano nei parchi, vadano a giocare, ovviamente con gli orari prestabiliti, con le distanze. Cioè, sono pazzi gli altri o siamo esagerati noi? Non lo so. Mi chiedo sì, questo. È sempre un non discorso di costi-benefici, come per i medicinali. Bisogna vedere quanto questa clausura forzata incide anche mentalmente sulle persone, insomma. Adesso ho cominciato a vedere che le persone per strada, sia pure con la mascherina, ma rispondono allo sguardo. Prima si abbassava subito la testa, invece adesso vedi che le persone, quando si va in giro a fare la spesa, cominciano ad alzare la testa, ti guardano. Cioè, secondo me c'è tanta voglia, insomma, di riprendere un minimo almeno di vita normale. Ma infatti, guarda, immagino che prima o poi ci sarà voglia di tornare a insultarsi nel traffico, per esempio. Quanto manca questa cosa, eh? Mandarsi a quel paese nel traffico. Prima o poi tornerà, abbiate fede. Traffico, a proposito, il traffico. Vediamo se c'è traffico, sentiamo. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Uno, nessuno, 100 Milan. In un mondo dove i social prendono sempre più piede e dove tutti sappiamo tutto di tutti, non vedo il perché tanta resistenza nei confronti di Immuni, di questa app che potrebbe quantomeno aiutarci in questo periodo. Auguri Manera, auguri da Lasco 71 di Riccione, quando vieni qua a trovarci, che ti offro una bella cena. Dai 45 ai 48, però trascura molto la pelle, è molto rugoso, molto, molto, molto. Vabbè, ma adesso non è collegato, aspetta che lo cosa ha fatto? È scomparso, è andato a tagliare una torta. Cosa? No, sono qui, ci sono. Angelica, che compie i 14 anni, oggi compie gli anni come te, ti saluta. Auguri Manera. Ciao Angelica, auguri a te. Siamo nati nel giorno migliore, Angelica. Vabbè. Torna a scuola adesso, torna subito a scuola. Di là, va bene. Torna a scuola, eccoci qua. Va bene. Allora, quanti anni compi? Dicono 53. Sei andata a controllare su Wikipedia? Sì, su Wikipedia mi dicono 53. Quindi è vero, è vero. 53 anni, dice... portati molto bene, sembro un ragazzino ancora, vabbè. Un ragazzo. Sì. Senti un po', vabbè. Sentiamo, sì, a parte le orecchie lunghe, Sergio da Torino, Sergio, che credo voglia intervenire sull'app, questa app Immuni è molto interessante. Sergio, che ci dice? Buongiorno, saluti anche a Manera. Tra l'altro volevo chiedergli se sa qualcosa, che fine farà il Bargini, se riaprirà dopo questo massacro. Me lo chiedevo anch'io, perché il Bargini mi dispiacerebbe non riaprisse, vista la concorrenza, tra l'altro, che doveva nascere con quell'altro locale. Comunque, fatta questa piccola battuta, no, io volevo dire sulla app che non sono tendenzialmente contrario, ma mi spaventa molto l'uso

Se non hai nessun sintomo, può darsi che tu abbia il virus, ma tu sia uno dei leggendari asintomatici. Se hai pochi sintomi, può essere che tu sia uno dei pauci sintomatici, cioè con pochi sintomi. Se hai molti sintomi e problemi respiratori, hai il virus e devi chiamare il numero verde sperando che non sia troppo tardi. Se muori, infine, bisogna capire comunque se sei morto per il coronavirus o con il coronavirus. Comunque anche gli asintomatici e i pauci sintomatici possono trasmettere il virus, quindi da qui in avanti e per sempre bisognerà diffidare soprattutto di chi sta bene, l'immunità. Chi è guarito dal coronavirus dovrebbe essere immune, sì, no, almeno per un po', non si sa, boh. Allora meglio restare a casa con le finestre aperte, anzi no, socchiuse, perché se sono troppo aperte poi magari entra il virus. Socchiuse ma con la zanzariera che forse un po' blocca il virus, chissà. Nel mondo infine qualcuno fa il famigerato lockdown come noi, qualcun altro come in Germania lo fa ma in modo più blando, solo che in Germania ci sono meno morti di dove si fa il lockdown più severo. Sarà che il virus un po' si spaventa dai tedeschi e preferisce altre terre, altre popolazioni? Non so. Bisognerebbe chiedere agli esperti che, grazie a Dio, in questi due mesi sono gli unici che possono parlare, che hanno saputo chiarire ogni nostro dubbio, gli esperti. E adesso, per fortuna, tutto mi è più chiaro. Quasi tutto, anzi, quasi niente. Finito. Qua arrivano tantissimi auguri, ovviamente, cioè, questo è il migliore, ragazzi. Io al limite non ho lo smartphone, ma se serve per la comunità lo compro, metto la app e quando è finito tutto butto lo smartphone e torno. Stupendo questo cittadino modello. Ma attenzione, c'è Caterina dalla provincia di Brescia, vorrei convocare lei. Caterina, buongiorno. No, buongiorno. Volevo fare tanti tanti auguri a Manera, perché con la sua folle saggezza ci porta sempre il buon umore. Sei forte, bello. Grazie mille, grazie. Grande. Grazie Caterina, folle grazie saggezza a te. È bellissimo, la folle saggezza di Manera. Il titolo sembra il titolo di un romanzo stupendo, La folle saggezza di Manera, un fogliettone. Te ne vuoi già appropriare, lo so, te ne vuoi appropriare. È bellissimo, bellissimo. Ma da dove chiama Caterina? Magari è io da Salò. Dalla provincia no, di Brescia, non lontano da Salò, che adoro tantissimo. Ah. Sì. No, ho detto magari provincia di Brescia cugina... dove, così per curiosità? Calcinato. Ah, lo conosco, ho giocato a Calcinato a pallone, abbiamo perso 5-0, mi ricordo. Vabbè, e ne hai prese anche tante in quel di Calcinato. Va bene. Caterina, grazie, è stata grazie, simpaticissima, grazie, ovviamente. Grazie per essere stata qui. Allora, ripartiamo da Bruno dalla provincia di Udine dopo, però il giornale radio, gli chiedo un attimo di pazienza. C'è da dire che su questa app Immuni vi siete un po' scatenati. Per esempio, chi scrive: Google Maps già traccia ogni movimento con o senza navigatore attivo, la gente sa questo. E poi effettivamente è una cosa strana che molti dicono: le forze dell'ordine che vanno a prendere anche i trasgressori in zone deserte. Non è qualunquismo, ma vorremmo vedere anche fare così contro i criminali comuni, no? E invece contro quelli che giustamente trasgrediscono vengono puniti, però i criminali, boh. Giornale radio 1, nessuno, 100 Milan. Milan, ma che paragoni fai? Un conto i dati che io do a Google, do a Facebook, un conto che do allo Stato. Lo Stato ha più potere su di te di quanto non ne possa avere Google o Facebook, no? Milan, ma come sarebbe i bambini nei parchi a giocare distanziati? Ma è un ossimoro, i bambini giocano distanziati da quando? Milan, adesso sono sulla ovest ed è deserta. Non vedo l'ora di farmi 2 ore di coda sotto il sole, col sole che mi spacca il parabrezza. Eh sì, e ci mancherà, ci mancano anche questi momenti. Hai visto che c'era quello che un conto è darli allo Stato, conto è darli. Beh, è vero, alla fine è vero, cioè, è un po' quello che dicevo io. Però si può andare con i bambini a giocare distanziati nel parco, prima che si entrasse nel vivo delle restrizioni. Io andavo con mio figlio nel parco, stavamo ma solo poi, scusa, noi due. Negli altri paesi come fanno? E giocavamo a pallone tirandoci la palla a 20 metri, 10 metri esatto. di distanza uno dall'altro, ma senza io tutti altri i giorni, intorno, quindi si può fare. Io tutti i giorni vado giù in cortile con Mattia, diciamo 10 minuti di calcio, ci mettiamo io e lui e basta. Certo, non è che si può andare a fare una festa al parco, con le regole, però si può, si potrà fare prima o poi qualcosa, no? Vabbè. Sai che dopo, c'è se abbiamo un po' di tempo, ho trovato le norme da osservare in Italia nel 1918 durante la grippe, cioè l'epidemia in quel caso di influenza spagnola. Ma certo, e ci sono certo tutte le regole che bisognava osservare nel 1918. Tienitele, tienitele, che tra poco la diciamo. Le tengo, le no, tengo. Aspetta, aspetta, che c'è Bruno della provincia di Udine che è lì da un po'. Bruno, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Come va? Bene, bene. Allora, lei io... sembra non tanto giudicare la voce. Infatti, dai, su di morale, siamo Bruno, tutti, che cosa ci vuole dire? No, no, io il morale è altissimo, per fortuna. No, parlavo, io sono un vecchio informatico che ormai ho lasciato correre perché non c'è dialettica con i computer, hanno sempre ragione loro. Quindi, per quanto posso dire, io il Bluetooth penso che non sia forse la cosa più adatta, perché il raggio d'azione del Bluetooth mediamente arriva anche in spazi aperti fino a 20 metri. Ora, io non voglio essere così tranchant e tassativo, magari si usa un'altra release di tecnologie, però quello che mi viene da pensare è che se io e lei siamo in strada su due marciapiedi opposti, poi sì. Dopo si scopre che io sono positivo, viene ricostruito il tracciamento, allora sì. chiamano lei e le dicono lei dice anche se sono passato a 20 metri, quindi a distanza di sicurezza, il Bluetooth, siccome quello è il Bluetooth, si utilizza quello per l'app, risulta come se fossimo entrati in contatto, pure a 20 metri. Ecco, fatto salvo che non ci sia una modalità per cui... insomma vengono scremate effettivamente. No, questa è molto interessante, perché siccome questa app Immuni funziona, cioè si accende il Bluetooth, dimentichi tutto, e quando il Bluetooth del telefonino entra in contatto con quello di un altro telefonino che ha la stessa app, si scambierà appunto leggevo un identificativo alfanumerico che verrà salvato sul cellulare, e così ti avvisano se entrate in contatto. Ma Bruno dice, ma se io sono passato a, facciamo non 25, ma 10 metri, quindi a distanza di sicurezza, cioè risulta che siamo entrati in contatto per l'app, ma in realtà 10 metri sappiamo che è una distanza totalmente sicura per la diffusione del virus. Sì. In teoria, perché poi ci hanno detto che può essere trasportato anche di qua e di là, quindi può anche darsi oppure a 10 metri, ma io tocco una cosa e poi dopo tu ti sposti e la tocchi, forse vabbè, comunque. Misteri, come al solito non abbiamo risposte. Meno male che c'è uno che ne ha tante di risposte. Luca Perri torna con noi. Luca Perri, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Luca Perri è il nostro esperto unico, che voleva mandare anche su un razzo Leonardo Manera per fargli provare l'ebbrezza. Sì, si è rifiutato anche perché hai scritto il libro Astro Bufale, in cui hai raccontato che andare nello spazio in realtà è un inferno, e quindi Manera ha detto, vedete a me, un po', a me già che... fa paura viaggiare con i 747 normali, con gli aerei. Sì, in realtà il libro più recente, no, quello è Partenze a razzo, effettivamente, Partenze a razzo, oltre che Astro Bufale. Allora, a proposito, Luca Perri, sono tornati tre astronauti due giorni fa, hanno detto ma la Terra è un pianeta, erano via da sei mesi, mi sa che stavano meglio nello spazio, Luca. Effetti erano più al sicuro, forse su, paradossalmente, per una volta tanto dal punto di vista igienico erano più al sicuro su. Però vabbè, tutto sommato credo tanto loro comunque una quarantena la fanno ugualmente tornati, quindi a quel punto la fanno anche per il coronavirus. Tra l'altro è molto interessante, oggi leggevo, non so in quale giornale, intervistato Luca Parmitano, perché tutti a raccontare come si vive negli spazi chiusi, e sappiamo che nello spazio si è molto, chi è claustrofobico, io per esempio, non può andare. E allora tutti a chiedere agli astronauti come si sta nelle case chiuse, senza muoversi, è interessante, no? Ma in realtà, tra l'altro, loro fanno, a parte degli appositi addestramenti, poi hanno un supporto anche psicologico proprio per resistere a questi ambienti chiusi, però hanno un grosso vantaggio che noi non abbiamo. È vero che la Stazione Spaziale Internazionale non ha spazi grandissimi, ma si può sfruttare anche il soffitto e le pareti laterali, cioè uno può anche camminare sul soffitto, cosa che noi non possiamo fare. Quindi in realtà il loro spazio è più utilizzabile del nostro. Cioè, quindi come se un monolocale di 20 metri quadri diventasse 20 per 5, è cubico, le 4 pareti. È cubico, in realtà. Diventa cubico, fate come i geco, vi attaccate sul soffitto. Allora, attenzione, con Luca Perri vogliamo sensibilizzare tutti i cittadini a un esperimento scientifico importante che viene condotto dal CNR. Luca, ce lo vuoi spiegare? È semplicissimo, perché lo possono fare tutti dal proprio balcone di casa. Vai, Luca. Assolutamente, noi abbiamo messo in piedi con una volta per scherzo, quasi tra amici, insomma, con dei ricercatori del CNR, Alessandro Farini dell'Istituto Nazionale di Ottica e Luca Balletti dell'Ufficio di Comunicazione del CNR, abbiamo inventato, diciamo, questo esperimento di scienza condivisa, cioè la citizen science, è la scienza che viene fatta anche grazie ai cittadini, soprattutto con l'apporto dei cittadini. Ci siamo resi conto che in Italia non era mai stata mappata la cosiddetta luce intrusiva, che è la luce che dall'ambiente notturno esterno entra nelle nostre case, che tra l'altro ha anche delle ricadute per quanto riguarda il ciclo sonno-veglia, quindi potremmo dormire peggio, insomma non fa benissimo questa luce intrusiva. Però non è mai stata mappata, perché non può essere che un ricercatore giri di casa in casa a mappare quanta luce entra nelle singole case. Sì. E quindi abbiamo chiesto aiuto alla popolazione dicendo mappatela voi stesso, scaricando un'app. Quale occasione migliore, visto che siamo tutti a casa, cioè aiutare il CNR a mappare la luce intrusiva in casa vostra? Come si fa? Allora, semplicemente bisognava scaricare un'app gratuita sul cellulare che non prendeva dati sensibili, visto che al momento siamo molto sensibili noi all'argomento, e con quest'app sfruttare il sensore di luminosità che c'è sugli schermi dei cellulari, quindi quello che quando usciamo all'aperto aumenta la luminosità dello schermo se c'è il sole, per farci leggere meglio, sfruttarlo per misurare sostanzialmente l'illuminamento dato dalla fonte di luce più intensa che abbiamo fuori casa, che può essere un lampione la notte oppure un'insegna luminosa, eccetera, e inviarci i dati in maniera del tutto anonima per creare appunto una mappatura di questa luce intrusiva. Abbiamo fatto finora due sessioni di misure a cui in totale abbiamo avuto, vado a memoria, 10.000 misurazioni da tutte 107 le province italiane, quindi in realtà hanno partecipato veramente tantissimi, cioè ogni misurazione arriva da una famiglia, perché difficilmente marito e moglie e insieme ci mandavano i dati, quindi comunque sono migliaia di famiglie in tutta Italia. Speriamo di poter fare ulteriori sessioni di misure, per ora stiamo iniziando ad analizzare i primi dati, che sono molto promettenti, perché appunto siamo riusciti ad avere una diffusione notevole. Ma promettenti o anche anche negativi, cioè a dire c'è troppa luce? Sono negativi, detto fra noi, sì, no, sono negativissimi. L'Italia ha il doppio dei lampioni delle altre nazioni europee, perché ci piace mettere lampioni un po' ovunque. Tra l'altro abbiamo un ulteriore problema, che il 30% della luce che produciamo non lo spariamo a terra dove servirebbe, ma nel cielo, e non serve assolutamente a nulla. Quindi in realtà l'Italia ha tutti un problemino. Tutti i soldi allora, anche, sarebbe bello quantificarlo dal punto di vista economico, lo spreco. È stato fatto, in realtà la quantificazione è stata fatta qualche anno fa, si parlava di circa 1 miliardino di euro l'anno buttato in illuminazione, sarebbe non sarebbe proprio... Economico. Sì, ad esempio io lo investirei nella sanità in questo momento, visto potrebbe essere investito meglio. E quindi ecco, la Citizen Science ci permette di fare delle misurazioni che normalmente non potremmo mai fare, e tra l'altro a me piace moltissimo perché ci mostra come in realtà la scienza sia una comunità e non un insieme di singoli. Aperto. E quindi, allora Luca, facciamo così, a me interesserà richiamarti uno di questi giorni, perché adesso non abbiamo tempo per parlare, visto che hai parlato di astrobufale, ci sono tante bufale anche sul coronavirus, preparati, anche se non è come dire la medicina il tuo, però ci sono tante legate alla tecnologia. Ora però non ce la facciamo, ma ti richiamiamo uno di questi giorni, settimana, se tu sei d'accordo. Volentieri. dobbiamo intanto ringraziarti, Luca Perri, il nostro astrofisico. Andiamo a sentire il traffico, poi Leonardo ci dice allora tutte le precauzioni del 1918, eh? Vai. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo. 1, nessuno, 100 Milan. Eccoci qua, allora Leo, vuoi dirci quali erano questi accorgimenti? Accorgimenti che erano affissi sui manifesti durante l'influenza spagnola del 1918. Il manifesto portava scritto in grande grippe, che è una bella parola secondo me, che è un sinonimo di epidemia, la grippe. Sì, diceva manifesto: concittadini, contribuite alla lotta contro l'attuale maligna epidemia di grippe osservando le seguenti norme. 1. Riducete la frequentazione delle osterie al minimo possibile. 2. Evitate la frequentazione dei teatri, cursal, cinematografi, ristoranti, caffè e concerti. 3. Recatevi al lavoro a piedi, evitate tram e ferrovie per quanto possibile. 4. Chi ha in casa ammalati, limiti le relazioni coi suoi simili all'assoluto necessario. 5. Curate la più rigorosa e minuta pulizia personale. 6. Non sputate nelle strade. 7. Tralasciate l'abituale stretta di mano nel salutare. 8. Cambiate frequentemente i fazzoletti. 9. Arieggiate diligentemente le vostre abitazioni, isolate, curate e trattenete in casa nel miglior modo possibile i vostri ammalati. 10. Rimanete in casa alla minima indisposizione per non esporre il vostro prossimo al pericolo del contagio. 11. In caso di malattia passate un periodo sufficiente lungo di convalescenza a casa. 12. Guardatevi dagli innumerevoli sedicenti mezzi preservativi della grippe. Quindi sostanzialmente vedi che sono tutti gli accorgimenti di oggi. Giusto, attuale, lavatevi le mani. Tra l'altro grippe giustamente ci dice, vuol dire influenza, un ascoltatore, anche in russo si dice grippe. Però influenza. Sono andato a controllare, può anche, proprio per essere ligio, è vero che vuol dire influenza, ma può essere usato anche come sinonimo in qualche modo di epidemia. Di epidemia. Ho controllato bene, sul bene. Vocabolario, altrimenti abbiamo gli ascoltatori cavillosi, pignoli, che ci fanno subito, vanno lì a fare le pulci, maledetto ascoltatore, cane, ti spacco la testa. No, che oggi Sprecacenere non la posso contenere a distanza, non la posso contenere, poi dopo mi... alle 10:23 minuti, ma secondo me Leonardo Manera, se apri la porta di casa, forse è venuto a trovarti qualcuno, non lo so. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24, sono Pargone. Pargone, l'onorevole Pargone, ma cosa ci fa a casa tua lì l'onorevole Pargone, Partito Democratico, buongiorno. No, sono in collegamento da casa, per fortuna siamo in radio e non mi vedete, così invece di star seduto davanti alla libreria come fanno tutti posso rimanere in vestaglia sul divano. è uno stile un po' retro alla vestaglia, ma piace a mia moglie perché dice che le ricordo Hugh Hefner, si ricorda il patron di Playboy. Sì. Infatti, cioè, da lei, giovane mi chiamavano, non me la vedo, non me la vedo proprio, non me la vedo, sì. Mi chiamavano il Playboy della bassa, diciamo. Allora, voglio dare una bella notizia: sono guarito dal Covid. Io e Zingaretti abbiamo fatto insieme due tamponi e siamo ufficialmente negativi. Per la verità, sul secondo tampone mi ero un po' spaventato perché l'infermiera ha urlato: lei è incinta, congratulazioni. Poi invece visto, no. Era uno scherzo che mi aveva fatto Zingaretti. Noi dal PD siamo così, portiamo il buon umore. Allora, comunque, sabato è il 25 aprile, caro Milan. Quest'anno sarà un 25 aprile diverso. Volevamo, diciamo, procrastinarlo, spostarlo a settembre, ma era strano fare il 25 aprile a settembre. Allora abbiamo detto: teniamo la data e organizziamo un 25 aprile alternativo. Prima cosa, una bella diretta streaming con i discorsi delle autorità e tanta musica. Anche un discorso di Speranza, perché Speranza è il ministro della salute, qualcosa dirà. Credo che parlerò anch'io, quindi per essere efficace in video, sì, mi sto studiando per essere efficace le stories di Fedez. Ho anche provato a disegnarmi un tatuaggio sul collo, mi sono tatuato sul collo qualcosa col compasso, ma sono svenuto e ho deciso di lasciarlo incompleto. Comunque, dicevo, 25 aprile, il corteo non si può fare, allora abbiamo mobilitato Orfini. Sono 15 giorni che sta ritagliando i cartoni della pizza per costruire i cartonati dei partecipanti. Le facce le disegna coi pennarelli, è riuscito a comprarli prima dell'ultima ordinanza di Fontana. Se il format funziona, pensiamo di replicarlo anche per le feste dell'unità. Intanto, per portarci avanti, abbiamo detto a Orfini di comprare le salamelle e disegnare più cartonati che puoi. Adesso vado. Milan, che mia moglie ha visto che sono in vestaglia e mi ha lanciato uno sguardo complice. Mi ha lanciato uno sguardo complice. Mia moglie, Hugh, uno sguardo complice come quando Landini strizza l'occhio a un saldatore. Milan. Comunque, va bene, beh, è efficace come immagine, è efficace, sì. Buon 25 aprile a tutti. Grazie. Ma cosa vuole che le dica? Sono anch'io qui confinato in casa, per me non cambia niente, anche perché non mi volevano tanto alle riunioni di partito neanche prima, quindi sono anche abbastanza abituato. È mia moglie che fa più fatica, anche se sta riscoprendo le mie doti nascoste, diciamo. Vabbè. Sì, allora, la ringraziamo. Adesso, Leonardo Manera, hai scatenato sempre su questa grippe, ovviamente, il solito putiferio. Tutti a dire che in tedesco è grippe, in francese è grippe, anche in russo, io ho detto, è grippe. In spagnolo, Betta dice, basta, non puoi cambiare la lingua spagnola, non è epidemia per nulla. Si dice grippe. Sono andato a cercare sul vocabolario, italiano. Italiano, dice, italiano, sinonimo di epidemia, anche influenza sinonimo di epidemia. Ho cercato sul vocabolario cosa lo zingaretti. Difendo Leonardo Manera, contro i saccentoni. Però adesso non scatenare il nostro. Mi sono documentato, ho un dizionario Garzanti della lingua italiana. Guarda che stai andando a vedere proprio in libreria. Tra l'altro è quello con sì, era quello con tre dita di polvere, era dal 1982 che non lo prendevi. Guarda, io adesso prendevi in mano. Io a casa ho un dizionario normale, un dizionario dei sinonimi e contrari e perfino un dizionario etimologico, quindi da questo punto di vista sono ben fornito. Allora, vuoi salutare tutti coloro che in qualche che modo continuano. Hanno voluto essere precisini insomma, i cani maledetti gli spacco la testa a tutti, esco da casa anche se c'è il contenimento, vado lì con una spranga, rompo la testa a tutti e fanculo. No, va bene. Allora, adesso, grazie a professor... tutti invece per gli auguri. Grazie. Vedete come vi ricambia, cari ascoltatori. Forza Milan anche a te, Danilo Di Trani, che mi scrive questa ultima comunicazione, sempre comunque dalle Appennine alle Ande, sulla schermata degli ascoltatori. Poco fa il virologo Pregliasco ha detto: a scuola non prima di settembre. Domani poi ne parleremo. E che si fa con i figli a casa senza i nonni che possono venire e la gente che deve andare a lavorare? Boh, grande mistero, arrangiatevi. Va bene, dai Leonardo, iniziamo questa settimana con un bel urlo liberatorio. A te la conclusione. Viva la chiarezza!